Good Rockin' Tonight e Country Skyline, i programmi di Maurizio Faulisi alle 23, dalle 23 alle 24 il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, una pillola, un pezzettino, un aperitivo anche in orario diurno alla luce del sole, e quest'oggi con del sano rock and roll, ma guarda un po', ma non Made in USA, perché sì, abbiamo imparato e mica l'altro ieri a fare il rock and roll bene anche noi europei. Pensate, questi qui che arrivano dal Belgio, si chiamano Sit Sniffers, quanto sono forti, hanno raccolto grandi soddisfazioni nel nord e sono arrivati anche in Italia, di tanto in tanto si fanno vedere e ascoltare anche in Italia, quindi tenete le orecchie aperte, sempre ben sintonizzati sulle frequenze di Rock FM, perché qualora passassero di qui Maurizio Faulisi ve lo annuncia. Il pezzo che ci ascoltiamo dei nostri amici Sit Sniffers è Assembly Line. Jump too high. Well, I learned how to walk, but I will never fly. What I write down, you can't read. I ain't the handyman you really need. But there ain't nothing wrong with me, I'm a feeling fine. I got a little mixed up on the assembly line. Well, I can walk and talk like a natural man. If I did something good, I can't do it again. I can't drive a car or ride a bike. To get from here to B, I have to take a hike. But there ain't nothing wrong with me, I'm feeling fine. I got a little mixed up on the assembly line. Questi erano i Sit Sniffers dal Belgio, grande musica dalla vecchia Europa, rock and roll in stile 50s ed è esattamente quello che si ascolta in Good Rockin' Tonight il giovedì con repliche il lunedì, ma anche anche a volte nella trasmissione country, quella Country Roots, Country Skyline, che va in onda invece il martedì con repliche il venerdì, e dove se no su Rock FM. Ciao a tutti.